via, ci siamo. Ma dove siamo? Siamo in viaggio verso mete lontane, verso posti incredibili, ma che dico, sono tutte mischierate. Siamo partiti di buon'ora stamattina da Firenze, in questo momento siamo niente poco di meno che a Rue de la Montagne, della Montagne, ma che ne so, io col francese non ci ho mai capito niente. Comunque, siamo a Parigi, incredibile. Una cosa incredibile, caro socio, sì, perché non sono solo, c'è il socio con me che mi accompagna in questo viaggio, più che accompagnare mi supporta e mi sopporta, gliel'ho sì. Già combinate, oggi svariate. Sì, mi toccò supportarti, non per poco anche, non per poco. 7 ore di TGV che sembrava quasi di andare a fare il pendolare a lavorare in fabbrica a Firenze, perché andava sto trenino, io avevo i ricordi mitici delle scuole, il TGV me lo insegnavano, il francese e questi treni che facevano questa velocità incredibile, io mi aspettavo delle cose spaziali, invece un trenino con dentro una moquette kitsch, un seggiolino viola, un seggiolino arancione, ma di moquette molto scomodi. Io di gambe c'entravo un pochino malino. Scomodo che ci vuole il rotobosch, sembra proprio fatto, sì, negli anni 80 è rimasto uguale a come lo fecero la prima volta. Era bello per quegli anni lì. Comunque, ha spaccato il secondo sia in partenza che all'arrivo e tutte le fermate intermedie che non sapevamo si sono scoperte andando passo passo con, da quando siamo partiti da Porta Garibaldi, si è visto l'annuncio sul tabellone, si è scoperto delle fermate e poi se ne è aggiunto ulteriori alla frontiera tra Francia e Italia e altre stazioncine. Eppure montata la polizia ad un certo punto a guardare. Sì. Passato il Fréjus, entrati in Francia, siamo stati guardati. Guardate, hanno fatto una passeggiata e la cosa mi ha fatto sentire tanto più sicura. Tanto infatti da quel momento anche il treno è un po' migliorato, è andato più veloce, è passato l'omino con il rotobosch a lavare tutte le moquette, quindi insomma il viaggio è stato molto più bello da quando è passata la gendarmerie della Francia. Intanto salutiamo gli amici della Lupa che hanno vinto l'ultimo Palio di Siena. Beh, sì, mi fai vedere le foto del Palio di Siena, perché sapete, noi insomma stiamo a Parigi, ma in realtà in teoria insomma ce ne dovremmo andare abbastanza presto da questa città, perché il nostro punto del viaggio è un altro. Noi andiamo a cercare di capire ma cosa cavolo è e soprattutto ma dove cavolo è questa benedetta isola di Wight, che in quella canzone mitica degli anni 70 in Italia ha spopolato. Sai dov'è l'isola di Wight? Insomma, ecco. Auguriamoci di trovarla, ma non solo, insomma, girellando per il mondo, per l'Europa, forse riusciremo anche ad incontrare qualcuno di un po' famoso, chi lo sa, insomma, queste sono cose che possono capitare, sai, magari ti capita davanti Paperino, che te l'aspettavi te? Io non me lo sarei mai aspettato. Ma non penso neanche ci si troverà, posso dire. Ma che lo sa, insomma, tutto è possibile. In ogni caso, un'altra cosa che io ho notato in questo viaggio, insomma, io socio, lo sai, noto delle cose un po' strane, sono un po' così, con la testa fra le nuvole sempre, soprattutto sul treno quando mi cade una birra di mano. E insomma, a parte quello, una cosa che ho notato, e te l'ho anche già detta stamani mattina perché l'ho proprio notata subito, è questa spersonalizzazione delle stazioni in Italia. A me, io essere alla stazione di Firenze, o essere io alla stazione di Firenze, ce l'ho in testa con il film Amici miei, di loro che vanno per questa stazione, a parte la scena degli schiaffi, però quella era una stazione che io mi ricordo di esserci stato quando ero più giovane, insomma. E quella stazione uno arrivava e diceva: ah, sono a Firenze. In effetti aveva un che, un qualcosa di caratterizzante nei confronti della città che la ospita. Ora, al di là dell'architettura, che è rimasta quella ovviamente, però ora con il gate, con tutte queste cose qua, sembra di essere alla stazione a Firenze, oppure dopo essere arrivati alla stazione di Milano, sinceramente era come essere nello stesso posto. E un'altra cosa che io ho notato, non so se anche te ci hai fatto caso, è che la stazione è diventata praticamente come un aeroporto. Cioè, ora prendere il treno è quasi come andare in aereo. Ora non c'è da arrivare 2 ore prima, non c'è da fare tutte quelle cose, però e controllano il biglietto prima, insomma, è quello e quell'altro. È diventata una cosa diversa. Io non sono un grande viaggiatore in treno e quindi tutte queste cose le noto. Poi magari è così da tanto, io è tanto che non viaggio e quindi per tutti sarà già ormai normale, come praticamente dopo 3 o 4 stazioni è stata normale anche per me. Però insomma, io questa cosa l'ho sentita, l'ho notata e ve la dico così. Se qualcuno non ha mai viaggiato, magari si prepari ad andare in treno come se fosse in aeroporto. Sì, in effetti ora le stazioni stanno vivendo il periodo storico che tutti si vive in una salsa o un'altra. Io non faccio il pendolare, ma durante l'anno mi muovo più di una decina di volte prendendo l'alta velocità in giro per l'Italia, quindi facendo tratte anche lunghe. Per esempio il fine settimana scorso era a Napoli. A Napoli ancora non ci sono i gate. Non però. Ci sono i gate, ho trovato la stazione blindata come a Firenze, con i VM90 dell'esercito e i ragazzini dell'esercito armati a controllare. E ancora non hanno fatto il divisorio, il muro interno alla stazione, come hanno fatto a Firenze, come hanno fatto già a Milano, perché noi si è trovato anche a Milano sto muro stamattina, come probabilmente ci sarà anche a Termini, a Roma, a tanti punti. Insomma, piano piano le stanno attrezzando tutti. È il periodo ora, quello degli anni, che c'è il bisogno di abbadare la gente. Si è creato un nuovo lavoro, si stropicciano le mani, insomma, tutte queste, a parte insomma i controlli dell'FS, queste aziende di monitoraggio, di controllori di persone dai negozi ai posti pubblici, dei servizi pubblici come le stazioni, magari ci saranno anche la stazione degli autobus. Ci sta, hai fatto caso che a Parigi una volta non succedeva nulla e non ce n'era bisogno, ora si è creata un'esigenza più tanziera, ma non lo so, sembra vada di pari passo, come c'era bisogno di nuove figure lavorative. Ci sta, questo è un punto di vista molto interessante. Io ho notato in Italia, ormai sono abituato, girellando un po' le città, anche a vedere i militari in giro con questi fuciloni spianati, che uno dice auguriamoci che non gli prenda il matto, perché se questi iniziano a sparare fanno una strage. Ma insomma, a Parigi, almeno fino ad ora, a me mi sembra di non avere visto i militari. Abbiamo visto molta polizia in giro, sì, rispetto alla città, a Milano, a Firenze, però i militari non mi è sembrato di averli visti alla stazione. Te magari ci hai fatto caso, io no. No, vabbè, si è visto poco, diciamo, sai. Ma alla stazione dico, io non li ho visti. Si è visto alla due stazioni, la Gare de Lyon e la Gare Rouge. Due stazioni di Parigi. Siamo arrivati appunto dall'Italia e molto velocemente siamo entrati subito negli ambienti della metropolitana, e se c'era qualche cosa non si è vista bene. La Gare du Nord ci siamo anche persi, c'è voluto un'ora per uscire, perché a fare le centinaia e centinaia di metri di spazi interni non ci vuole nulla. La Gare du Nord, più che altro c'è un gran caos, una frenesia incredibile. Fuori si è visto, però non dentro gli spazi della ferrovia, ma diciamo negli incroci fuori, negli spazi nella città, urbanisticamente un po' più nevralgici, la polizia, insomma, che la stanno sfruttando come è normale che sia. C'è un servizio di polizia, invece di starla di fare altre cose, quella la sfruttano nei punti nevralgici della città, e insomma di casino, fra gente a piedi, pulmate intere di persone che scendono e di corsa vanno ai fornelli della ferrovia. Ci siamo stati un'ora, si è visto entra e esci 2 o 3 incroci, perché si è sbagliato un paio di uscite, ecco, si è trovato per queste situazioni parecchio frenetiche e una blindatura esterna, non interna alla stazione. Beh, in effetti sì, il grande casino che c'era alla Gare du Nord ha colto di sorpresa pure me. E insomma, io direi che per oggi il report può essere andato bene anche così. Chissà domani dove saremo, chissà dove andremo, comunque ve lo racconteremo, qualsiasi cosa faremo, più o meno ve la racconteremo. Grazie di essere stati un po' in viaggio con noi, anche voi, all'ascolto di Radio Big World, e vi diamo appuntamento alla prossima tappa di questo incredibile viaggio alla ricerca dell'isola di Wight. L'isola di chi? Secondo me.